Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ma Drago, ma cos'è sto casino? Cos'è sta protesta, i megafoni? Cos'è? I genitori protestano contro la bambina ministra Gelmini. Ancora? O ex bambina ex ministra Gelmini. Cosa? O ex bambina ministra bambina ex ministra Gelmini. Quindi protestano. Protestano perché, vabbè, la Gelmini non vogliono, hai visto, hanno fatto questa bellissima installazione d'arte contemporanea per lei, per protesta. Sì. E poi protestano anche contro lo Scuolabus che... Tito! Vabbè, cosa ma sì, ma perché sto mettendo un po' di carne sul fuoco, sennò qui non si capisce mai di quello che stiamo parlando. Allora, invece proteste. Così, sì. Vabbè. Proteste, allora, hai visto questa installazione qua? Installazione artistica. Sì. Secondo te l'asino fatto con le bottiglie di plastica è un'installazione artistica? È sempre meglio che mettere le bombe, no? Incoraggiamo la protesta creativa. Vabbè, giusto. Viva l'arte contemporanea di protesta. Oh. Per protestare con la bambina ministra Gelmini bisogna regalarle un enorme asino fatto con le bottiglie di plastica. E questo per significare che cosa, secondo te? Non lo so. Sono due. È difficile capirlo. No. Potrebbe voler dire che la riforma della Gelmini è una riforma d'asini, oppure... Non so, secondo me ha qualcosa a che fare almeno col riciclaggio, la plastica... No. Riciclaggio non del denaro. No, perché sennò qui in questo governo se dici queste cose si allertano tutti. Ma no, poi ma a parte me... che non è asino non va bene, perché la bambina ministra Gelmini a scuola intanto era bravissima. Dici? Ma lo dice una sua compagna di classe. Ci siamo conosciute a giurisprudenza, perché io ho preso la prima laurea a giurisprudenza a Brescia con lei, eravamo studenti insieme, quindi mi ricordo di Maria Stella molto bene, perché insomma ci incontravamo nel corridoio della facoltà, che era di quattro stanze, una piccola facoltà, e era una ragazza molto mansueta, molto buona. Se devo essere sincera, non particolarmente brillante negli studi e basta, e neanche particolarmente, come dire, non ho mai vista avere delle... Allora non coltivava, diciamo, alcuna passione politica, alcuna. Non ha mai fatto interventi di natura politica, che io ricordi. Ma l'asino fatto di bottiglie di plastica, cosa c'entra con lo scuolabus? No, quelli sono, è un'altra protesta. Quella per lo scuolabus è la protesta perché appunto sullo scuolabus c'è questa pubblicità del sex shop enorme e quindi i genitori si sono un po' indignati. Ma io non l'ho mica vista. Vai a vedere, quando arriva al mattino vedi che c'è questo scuolabus che arriva carico di bambini ma pubblicizza una cosa tipo, non so, Paradise... Hard Paradise, Hard Disk Paradise, insomma, quelle cose lì. Insomma. Sex shop è ormai una cosa, ma scusa. Dai, sex shop, Drago, sono... Ma sì, ho capito. È come i francesi, no? Che è gente... No, però scusa. I sex shop ormai sì, sono... Scusa, uno scuolabus con la pubblicità di un sex shop sulla fiancata è una cosa da candid camera, cioè ti chiedi se è vero o no quello che stai guardando. Ma è successa la stessa cosa. I sexy shop o sex shop sono a due metri dalle chiese, lo so. Quindi vabbè, ma e nessuno si lamenta. Vabbè, ma qui ci sono i bambini. Poi è successa la stessa cosa a Feltre, i genitori hanno protestato e infatti adesso hanno cambiato la pubblicità sull'autobus. E adesso che pubblicità c'è? È una grappa delle Dolomiti. I bambini, quelli che hanno 7-8 anni, lo capiscono da soli che la politica è una cosa importante per i genitori, no? Guarda, lo capisce anche Tito che frigna. Basta, Tito! Perché sentono che se ne parla a cena, poi vedono il papà che scaglia pagnotte contro la TV non appena appare qualche ministro. Quindi capiscono che questa cosa, chiamata politica, incide non poco sull'umore dei genitori. Sai che i bambini piace vedere l'umore dei genitori quando sono allegri, eccetera, temono l'umore dei genitori quando è tetro, no? Però sono disorientati, non capiscono il perché di questa importanza. Così, no? Non capiscono proprio nel merito cos'è questa politica. Ma meglio, meglio. Ma me cosa vuoi? Rovinargli la vita già adesso? Adesso cosa bisognerebbe insegnargli cosa? Destra e sinistra, tipo, maggioritario proporzionale, poco per volta. Giustizialisti garantisti. Ma non sarebbe male, ma no, sarebbe una tortura. Sei pazzo, ma poveretti, lasciamoli nella loro innocenza. Ma invece no, ma no, io sono per i corsi di formazione politica fin da bambini. Sì, capito? Bravo. Come in Cina, quando c'era Mao Zedong, Deng Xiaoping, Chuen vediamo se ne sai qualcuno. Non so, però Hua Kuofeng, che però è durato poco. Allora, la politica spiegata ai bambini. Tu te lo vedi, un libro fatto dal bambino Veltroni. Sì, che il libro della buonanotte. Leggi mezza pagina, dormi. Ma no, dai, perfetto Veltroni, no? È pacato, di buon senso. Appunto, per far la nanna è perfetto. Dai, meglio il bambino Bossi. Allora. Dici, la politica spiegata ai bambini dal bambino Bossi. Tutto pernacchie, ruti, scoregge, gestaci, sindrome di Tourette, parolacce. Politici a parte, chiunque potrebbe spiegare la politica ai bambini usando seguendo l'esempio della famiglia, no? Il padre che lavora e porta a casa i soldi è il capitalista. La madre che amministra i soldi che porta a casa il padre è il governo. La donna delle pulizie è la classe operaia. Il bambino più grande è il popolo, il fratellino e la sorellina minore sono il futuro. E quindi diciamo che. Ma sai che detta così sembra perfino una bella storia. Poi gli spieghi i vari rapporti tra loro. No? Poi invece gli devi spiegare che quando la sorellina minore se la fa addosso e di notte piange, allora cosa succede? Il fratellino maggiore va a chiamare la mamma, che però non si sveglia. E allora dov'è il papà? Il papà è a letto con la donna di servizio. Ma dai, ma che disfattismo. Ma no, scusa. È così. Ma è la politica di oggi, Drago. I capitalisti trombano la classe operaia, il governo dorme e non ascolta il popolo, mentre il futuro se la fa addosso. Vabbè, ma benvenuti nella, così, nella fiera del qualunquismo, al festival. Vabbè, e allora come la spieghi la politica ai bambini? Non so, come appunto, fai? Partendo da quella cosa lì, ma spieghi cosa? I grandi bambini politici? Il bambino Kennedy? Anche. Non so, il bambino Allende? Certo. Chi c'è? Il bambino Gorbaciov? Certo. Il bambino Mandela? Bravo, così. Il bambino Rotondi. Ma come il bambino Rotondi? Beh, il bambino Rotondi, guarda che lui è l'erede della DC, Beh, certo. Lui ha capito tutto del popolo italiano. Vero, bambino Rotondi? Ma quando gli italiani sentono le cose che stanno scritte sui giornali su Berlusconi, non si scandalizzano mica, perché Berlusconi parla come gli italiani. Gli italiani al telefono ridono, si divertono, scherzano, dicono anche qualche porcheria ogni tanto. E quindi è questa stampa di cultura azionista che non ha capito prima la DC e poi Berlusconi, perché non ha capito l'Italia. Immagina un'altra Italia che non esiste. L'Italia è un paese di gente semplice che ti fa anche la battutina un po' spinta, ma poi la domenica va in chiesa, c'ha i suoi valori, manda avanti con i sacrifici la famiglia. Questa è l'Italia e questo è Berlusconi che la guida. Beh, ma scusa, ma qui cosa ha detto il bambino Rotondi? Che siamo un popolo di cialtroni? C'ha ragione, guardati. Attenzione, perché la famigerata Università del Minnesota, quella che viene sempre citata a caso per dare autorevolezza a certe notizie curiose, è andata a frugare nei pannolini dei neonati e ha trovato proprio quello che cercava. Ecco, la pipì e la cacca. Ma no, sì, vabbè, oltre alla pipì e la cacca, i signori dell'Università del Minnesota hanno trovato tracce di nicotina. Ma come? Nei pannolini, sì, perché il fumo passivo arriva dappertutto, e fa malissimo ai pannolini, cioè ai bambini. Perciò, bambini genitori, smettete di fumare o fumate solo in luoghi non frequentati. Giusto. Dai pannolini. Giusto. Dei vostri figli. Anche i nonni, basta con le pipe, basta con i sigari. Quali pipe, quali sigari adesso? I nonni, no? E i nonni. Il nonno fuma la pipa, fuma il sigaro, vabbè, scusa. Sì, c'è questo immaginario pop, il nonno uno con i capelli bianchi, sulla sedia a dondolo, che fuma una pipa. Col cardigan. Ma dai, ma no, ma i cinquantenni di adesso sono i nonni. I nonni di adesso hanno 50 anni, non fumano più da un sacco di tempo. Sì. Se non sono morti di infarto. E ora, bambini, e tutti a casa. Beh, rilassante, eh? Ma cosa? Stai qui, guardi il traffico, ti rilassi. Ma sei impazzito. Drago, ma cosa? Dai, ma vedi che non riesci mai a trovare il senso delle cose. Non si riesce a attraversare. Pazienza, guarda il flusso delle macchine. È interessantissimo, vario anche, no? Ma non so, ma fai uno scatto di immaginazione. Pensa ai futuristi. I futuristi? Perché? Cosa c'entrano i futuristi? Il bambino Bocchino, ma no, bambino Urso? Ma lascia stare le cose dell'attualità, queste... Lascia stare, rivolgi il tuo sguardo alle glorie del passato. Cioè, no? Alle rovine del passato. Ma perché? Perché il passato lascia solo rovine. Scusa, mi pare dei futuristi. Loro dicevano che il passato lasciava delle rovine. Tu pensi che lasci, cosa non so, testimonianze gloriose? Io penso che lasci solo delle rovine. Il passato è tu così. Tu pensi così. I futuristi, Drago, saranno anche passati. Ormai sì. Ma sono ancora attuali. Sono passatisti. Guarda, guarda, questo fiume di macchine. Dimmi se non è bello e suggestivo, come un fiume d'acqua cristallina. Sì, soprattutto profuma come il un fiume d'acqua cristallina. Il nostro organismo ormai lo sopporta benissimo. Sì. Sì. Insomma, quasi. Comunque, non è che il Gange profumi di rosa, no, eh? Anzi, nel Gange vanno a finire deiezioni, quant'altro, chissà che schifo. Vedi, meglio questo fiume. No, ma sì, ma prova a farci il bagno in questo fiume e poi vedi. Secondo me hai le stesse probabilità di sopravvivere come se ti tuffassi nel Gange. Perché non provi, no? Un vero futurista sa nuotare anche tra le automobili, come tra le onde, no? In senso figurato, no? Quindi, che si fa? Si aspetta, no? Come Godot. Ma no, ma Godot guarda che non aspettava, erano quegli altri due che aspettavano lui, no? En attendant Godot. Ma en attendant Godot, appunto, non Godot, en attendant erano due, erano Vladimiro e Placido. Vladimiro e Placido, ma sei sicuro? Ma sì, tipo Vladimiro e Placido. Scusa, ma non erano Beniamino e Placido? Ah, forse sì. Ah. Un programma di Campo e Drago. Torniamo domani e mandate i vostri sex toys a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.